Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e buon lunedì. Stiamo riflettendo da qualche giorno in realtà di quanto sia difficile dare il giusto peso alle cose, perché ognuno di noi, attento al suo piccolo orticello, vede il tutto che conta per lui e spesso non vede ciò che è importante per gli altri. So di sembrare un po' criptica con questa frase, ma al tempo stesso è proprio da qui che voglio partire per la puntata di oggi. Vi è mai capitato che la vita vi abbia portato a rimettere tutto in discussione, a cambiare la scala dei valori, la gerarchia delle vostre priorità, perché l'esperienza del qui e ora ha stravolto tutte le vostre certezze? Al tempo stesso, vi è mai capitato di vedere accanto a voi persone che danno un peso enorme, no, a cose che per voi invece ne meriterebbero molto bene? Insomma, il tema di oggi è il giusto peso che diamo alle cose. Al tempo stesso, essendo noi un programma di salute, il ruolo che salute e malattia giocano nella vita di ciascuno di noi nel rimettere in ordine le priorità. L'idea della puntata nasce quasi inconsapevolmente da un articolo apparso sul Corriere della Sera intitolato "Se in TV si parla più delle unghie dei cani che dei bimbi da salvare", di cui, senza saperlo e senza volerlo, la mia trasmissione è stato il punto di partenza. Ne ascoltiamo un breve estratto. Si parlava di cani, dei problemi che nascono quando si consumano le unghie, magari perché se le rosicchiano, e gli esperti spiegavano quali medicine erano necessarie per ovviare al problema, includendo, se necessario, l'intervento dello psicologo che possa allenare il cane a non rosicchiarsi più le unghie. Lo psicologo! E poi la dieta necessaria, l'attività fisica, la toilette, l'affetto di cui occorre circondarli. È lì che non ci ho visto più. Sono indignata, amareggiata, scandalizzata, confusa. In realtà non era la nostra radio che trattava quel tema, ma va bene lo stesso, lo spunto era comunque valido per approfondirlo. Ed eccomi qui con i due protagonisti del dibattito che il Corriere ha approfondito su un'intera pagina. Saluto Suor Laura Girotto, missionaria salesiana in Etiopia. Buongiorno. Buongiorno. E salesiana sempre e missionaria in Etiopia. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Grazie Suor Laura di essere qui con me in studio. E saluto Gian Antonio Stella, giornalista del Corriere della Sera e scrittore. Buongiorno dottor Stella. Buongiorno a voi dottore, no, ma buongiorno lo stesso. Buongiorno, buongiorno. Suor Laura, lei è indignata? Sì. Come il dottor Stella sa, perché è a lui che mi sono rivolta proprio per poter dare voce a questa mia indignazione. Stavo viaggiando dentro e fuori gallerie, per la verità, in questa nostra Italia, ed ero sintonizzata sulla vostra radio, che da quello poi che mi pare di aver capito probabilmente è saltata su altre emittenti. Comunque c'era questo argomento che parlava proprio di animali e tutto l'affetto e la cura che si deve dare a questi animali. Ho poi verificato sul vostro sito, sul vostro archivio, in effetti la trasmissione non trattava di questo, trattava di probabilmente tic degli umani. Che vabbè, ma suora, io voglio dire, c'è stato uno svarione, ma il tema mi sembra che sia così, ci offra veramente uno spunto per capire il giusto peso che diamo alle cose. Lei, essendo missionaria, dal suo osservatorio vede tante cose a cui lei darebbe un peso diverso. Ah, decisamente. Ecco. Mi sembra a volte di essere in un altro mondo. Io vivo sono nata in questo nostro mondo, ma vivo in un mondo che è totalmente diverso, e per il capire il quale sono convinta che ci manchino spesso le categorie mentali. Un piccolissimo esempio, l'affetto che si deve dare ai cani, la cura che si deve dare agli animali, che ai quali io riconosco perfettamente il diritto di cittadinanza, il diritto alle cure, il diritto all'affetto e tutto quello che si deve. Però io chiederei che si potesse dare una uguale opportunità agli esseri umani, certo, che hanno avuto la sfortuna, l'unica colpa direi, di nascere nella parte sbagliata del pianeta, perché un bambino che muoia, un neonato che muoia per una semplice diarrea infantile perché manca la cannula pediatrica per poterlo mettere sotto flebo, credo che sia un grido d'accusa a tutti noi. Ecco, questo accorato appello di Suor Laura Girotto è stato accolto da Gian Antonio Stella, è stata anche un'occasione, no? Il vostro articolo per riflettere sull'eccesso di attenzione degli italiani che sembrano avere nei confronti dei cuccioli, ma questo è un pretesto, no, Gian Antonio Stella? Per me se si riuscisse a conciliare le due cose, ben venga tutta l'attenzione agli animali, perché io, a parte il fatto che io ho sempre avuto animali, e ho una gatta con tre gambe, perché una l'ha lasciata sotto una macchina, l'abbiamo curata con grande affetto come meritava. Certo. Però quello che, il problema che pone Suor Laura è un altro, cioè certo, l'abisso che c'è nella sproporzione fra l'attenzione per gli animali e l'attenzione per quanto succede tra il mondo. Faccio un esempio: questa mattina sui giornali c'è una battutaccia, io sono veneto, ma da Veneto chiedo scusa a chi si è sentito offeso a nome di un altro veneto che non voglio manco nominare, della Lega, che ha fatto una battutaccia dicendo gli arabi, i profughi, si ritengono in Sicilia che il clima è più buono. Ecco, c'è una sproporzione. Magari quel signore che l'ha detto adora il suo cane, stravede per il suo gatto e coccola il suo coniglio o il criceto. Sì. Ecco, non esiste. E su questo Suor Laura ha perfettamente, totalmente ragione. 800 24 00 24, se volete intervenire potete come sempre scriverci al 349 238 6666. L'articolo ha scatenato, ne parlavo con Suor Laura, reazioni più svariate, no? Chi a favore, chi contro. Suor Girotto, lei ha ricevuto anche molti messaggi accesi di contestazione alla sua indignazione. Sì, alcuni anche abbastanza pesanti, però li ho letti, diciamo, anche con un senso di comprensione e accettazione da parte di queste persone, che considero, suppongo, non le conosco, però suppongo che abbiano sofferto molto, soffrano di solitudine, problemi affettivi, probabilmente tragedie familiari non integrate, non risolte, e quindi ci si rivolge sugli animali come compensazione. È una cosa molto umana, certo, che non discuto e non voglio assolutamente criticare. Allora, infatti io dico già a molti di voi che stanno chiamando, no, a difesa degli animali oppure a difesa degli esseri umani, questo genere di cordate pro o contro io la eviterei, no, stamattina. Vorrei proprio che voi, insomma, insieme, di aiutarci a fare un percorso un pochino più approfondito, una sorta di autoanalisi, che però voglio far spiegare ad Alberto Pellai, che è in linea con noi. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Medico, psicoterapeuta, docente all'Università di Milano, ma soprattutto, Alberto, sei del così di Essere Benessere, quindi della squadra. Della squadra. E con Alberto abbiamo cercato di mettere a fuoco la puntata di oggi, perché il tema ci sembrava particolarmente, no, di attualità, visto come anche Gian Antonio Stella notava. Alberto, è una questione di priorità, di valori, di prospettiva. Come si riesce, come si può provare a dare il giusto peso alle cose? Parto proprio da questa cosa, il giusto peso, perché nella nostra vita, a seconda delle fasi che stiamo attraversando, degli episodi che ci capitano, noi diamo quello che è il giusto peso in un momento della nostra vita diventa qualcosa di completamente differente magari 5 o 10 anni dopo. Allora direi che la puntata di oggi è davvero un'occasione molto molto interessante per riflettere su due aspetti. Uno è quello interno, proprio relativo alla nostra vita. Probabilmente ci è capitato un evento, qualcosa che di inaspettato, che è arrivato ad un certo punto e ha cambiato, sovvertito completamente le nostre priorità. Cioè tutto quello per cui vivevamo fino ad oggi, da domani cambia, o certo, perché è arrivato un figlio, ad alcuni capita proprio con l'ingresso nella genitorialità, per un amore. Noi in salute vediamo per esempio che a volte alcune diagnosi o alcune malattie acute come un infarto, ci sono i cardiologi che le chiamano teachable moments, cioè momenti che insegnano, in quell'evento critico lì uno riesce a rimettere ordine nella sua vita proprio come non era riuscito a fare fino per moltissimi anni. E l'altro aspetto invece è la parte che sta fuori di noi, cioè a volte rimaniamo molto colpiti, un po' proprio come ha fatto la tua ospite, dal fatto che ci sembra che ci sono persone che giocano tutta la loro esistenza su delle priorità che sono totalmente lontane da quelle che noi abbiamo usato per dare senso e significato alla nostra vita. Allora, che cosa ci colpisce a volte nelle priorità degli altri? Quali sono le priorità degli altri così lontane dalle nostre? E che ruolo possiamo avere noi magari per aiutare le persone a dare il giusto peso alle cose che davvero contano? Grazie ad Alberto Pellai, che sarà da noi domani in trasmissione per una puntata che dedicheremo proprio ai bambini. Andremo a scuola con i nostri figli per raccontare un po' le loro difficoltà. Intanto saluto Alberto, grazie. Ciao. Alberto, a domani. A voi, buona puntata. Allora vi invito a scriverci via email, esserebenessere@radio24.it, sul nostro profilo Facebook, un sms, come siamo tecnologici, suor Laura, 349-238-6666. La storia di Giusto Peso che vi è capitata. Che cos'è che vi ha messo così ordine nuovamente nella vostra vita? Per suor Laura è stato sicuramente un incontro, eh? Sì, mi sono innamorata di una persona che si chiama Gesù Cristo. Per Gian Antonio Stella, qual è stato? Ma qui non è questione, secondo me, di convertirsi o di riconvertirsi. No, ma io non dico forse, questo. No, ma io sto rispondendo. Io credo che sia una questione di buon senso, io dico da laico, sia una questione di buon senso. Trovo assolutamente sacrosanto l'amore per gli animali. Ha ragione suor Laura, del resto questo scrivevo anch'io l'altro giorno, e cioè che ci sono in un mondo che spesso costringe alla solitudine, capita che possa essere assolutamente che l'animale possa essere l'unica compagnia, e ci mancherebbe altro se non posso capire l'amore che si deve nei confronti degli animali. Citavamo nel pezzo il cantico delle creature, la predica agli uccelli di San Francesco, ma non c'è nessuna contraddizione tra l'una e l'altra, è una questione di misura, solo di misura, cioè tra dare dare all'animale una scatoletta extra lusso, sapendo che questa scatoletta extra lusso costa quanto costa il mantenimento di un bambino per due o tre giorni, come dice suor Laura, in effetti c'è uno squilibrio. Certo. Io dico soltanto, almeno poniamoci il problema. Senta, Gian Antonio Stella, lei che è un giornalista di inchiesta e di assalti, in questi anni ne ha denunciate molte di situazioni in cui il giusto peso dato alle cose sembrava essere stato completamente perso. Anche nel suo ultimo libro, Vandali, l'assalto alle bellezze d'Italia, appena pubblicato da Rizzoli, lei si pone proprio con lo strumento dell'inchiesta giornalistica al servizio di uno dei tesori più grandi, no, del nostro paese. Io vorrei farvi ascoltare un dato che mi ha molto colpito dal suo ultimo libro. Eravamo i primi al mondo nel turismo. Siamo precipitati per competitività al 28esimo posto. E il portale italia.it, costato milioni di euro, è 184.594esimo fra i siti web più visitati del pianeta. Una classe dirigente seria sarebbe allarmatissima. La nostra, no. Anzi, la cattiva politica è tutta concentrata su se stessa e si tiene stretti tutti i privilegi. Le sole auto blu costano 2,5 volte l'intero stanziamento per i beni culturali, dimezzato in 10 anni. Insomma, come lei ha raccontato in molti suoi libri, forse anche noi fatichiamo a trovare le giuste priorità nella nostra vita privata, perché le priorità nel mondo civile e nel mondo pubblico, no, sembrano state sovvertite. Cosa che un po' rimane anche la tesi di suor Girotto. Vorrei un suo commento a questo proposito e poi vorrei sentire anche suor Laura. Sì, io credo che sia insomma la vita, la meravigliosa democrazia di oggi, che io adoro, guai chi me la tocca, ha però alcuni, e anche il mercato, che ha risolto un sacco di problemi, che è una cosa seria, importante. Hanno risolto un sacco di cose, però hanno è come se ci avessero messo davanti una quantità enorme di scaffali, sì, di un supermercato dove noi ci possiamo servire. I nostri padri, i nostri nonni non avevano questa opportunità, noi ce l'abbiamo, magari nei momenti di crisi un po' di meno, però ce l'abbiamo. Scegliere è diventata una questione di responsabilità in qualche modo più di una volta. Voglio dire che i nostri bisnonni, che in Polesine si andavano a disseppellire le vacche morte di malattia e se le mangiavano nonostante il veterinario avesse ordinato di seppellirle e di riempirle di petrolio per renderle immangiabili, non erano in grado di porsi il problema che ci poniamo noi oggi. Per cui noi abbiamo oggi anche delle responsabilità in più, ce le abbiamo come singoli e ce le abbiamo come stati e ce le abbiamo come governi. Quando noi poniamo il problema, io e Sergio Rizzo nel libro, che tu non mi puoi teorizzare che l'Italia è il paese più importante del mondo per la cultura e vantartene negli spot pubblici e poi tagliare della metà i fondi alla cultura, perché c'è una contraddizione. Certo. Sor Laura, siamo pieni di contraddizioni, no? Sì, assolutamente. Tornando al motivo della mia indignazione per quale ho coinvolto Stella, credo proprio che questa responsabilità comune che abbiamo debba toccarci da vicino. Non bastano le reazioni di pancia. Succede un incidente, scoppia qualcosa, si trova un bambino morto e si fa si ha una grossa reazione per un minuto, poi se ne dimentica immediatamente. Allora, questo fatto che mezzo mondo, tre quarti di questo nostro mondo, e questi disperati che arrivano sulle nostre coste sono parte di questo mondo di disperati, soffra e ci siano reazioni come quelle che ha detto Stella stamattina, che stiano in Sicilia perché là fa più caldo, è equivalente a quella che è stata detta a me: dica alla sua gente che facciano meno figli, se non nascono non muoiono. È segno di una, prima di tutto, una grande opacità, una grande ristrettezza mentale, un grande egoismo, una assoluta mancanza di coscienza che ormai questo mondo è una cosa sola. Se andiamo a fondo tutti, e ogni vita che c'è su questo pianeta è responsabilità personale di uno di noi. Chi dice lo faccia il paese, lo faccia il governo, lo faccia la Chiesa, lo faccia il Papa, trova una scappatoia, il solito gioco dello scaricabarile per dire io non ho voglia di fare niente. I bambini che muoiono in Africa sono responsabilità non solo del Papa o della Chiesa o di Suor Laura, sono responsabilità mia, sua, di ciascuno di noi. E di questo un giorno dovremo rendere conto, perché sono solo 6 ore di aereo che ci dividono da queste situazioni, per capire le quali a noi mancano addirittura le categorie mentali. Ecco perché sono indignata. 800 24 00 24. Temo che Gian Antonio Stella debba andare a lavorare. Vero? Però volevo sottolineare una cosa anche per rimane un sorriso. Scusi, facciamo un sorriso. Io devo dare il mercati e il meteo. Lei sta con noi e poi facciamo uno sorriso insieme. Va bene. A dopo. Certo. Essere e benessere. Eccoci qua, il giusto peso che diamo alle cose. Cerchiamo un pochino di riflettere, tante volte ci rendiamo conto che magari leggendo, incontrando una persona o per un fatto che è capitato nella nostra vita, che insomma qualche cosa deve essere un po' ritarato, rimesso a posto. Abbiamo Sor Laura Girotto qua in studio, abbiamo Gian Antonio Stella al telefono che sta per scappare, ma che ci ha promesso... No, una cosa che dà l'idea di quanto dice Sor Laura, andando con un taglio anche, se vogliamo, un po' più così, che ci fa anche sorridere, perché c'è bisogno anche di questo. Allora, qualche anno fa, un medico, ripeto, non un, come dire, un cubista, un medico, lanciò un appello sul giornale La Stampa per chiedere se qualcuno adottava il suo coccodrillo. sì. coccodrillo. Cioè lui aveva preso un coccodrillo piccolo e ci aveva giocherellato per qualche anno e la bestiola era diventato giustamente un coccodrillo, nella sua natura, un coccodrillo. E lanciò un'intervista, un appello a chi voleva il suo coccodrillo, dando un'intervista alla stampa irresistibile, che io ho inserito in un libro e che adesso le leggo perché è straordinaria. Cioè, a un certo momento ha detto, dice, fra l'altro non è neanche di compagnia. Allora il giornalista giustamente chiede, scusi dottore, perché un coccodrillo dovrebbe essere di compagnia? E lui rispondeva, tutti gli animali possono diventarlo, tutti si affezionano al padrone o a chi dà loro da mangiare, Ippolito no, lui è una specie di macchina primitiva concepita esclusivamente per divorare, mi viene incontro solo quando capisce che è ora di pranzo. Ora io domando, questo medico Ciaura che idea ha della vita? Non so se vi spiego. C'è qualcosa che non va, fa sorridere, d'accordo, però insomma, uno non può portarsi in casa un coccodrillo. Vuol dire che, che c'è qualcosa in questa società che non funziona. Sì, anche solo, cioè non è necessario portarsi i coccodrilli a casa, no? Solo Laura. No, assolutamente. Comunque, grazie a Gian Antonio Stella per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata a lei e andiamo a Massimo da Ferrara, buongiorno. Massimo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, che mi dice? Ma io dico, io sono uno che per lavoro gira parecchio il mondo, quindi sono stati in posti come Libia, India, Siria, sì. Ho conosciuto tantissime persone, quello che non mi va più è che il potere economico, il potere politico ha perso che cos'è veramente la persona umana, che è l'unica risorsa che abbiamo attualmente, sì. Abbiamo perso l'uomo come punto centrale, abbiamo perso rispetto e solidarietà nei confronti delle di tutte le altre persone. Solo questo. Poi dopo all'interno di questo ci sono gli animali, ci sono tante cose, però noi dobbiamo sempre mettere l'uomo, certo, al centro della nostra attenzione. Senta, lei come pensa? Cioè siamo destinati a precipitare o qualche cosa ci salverà? Ma io penso che con una buona volontà di tutte le persone noi non dobbiamo precipitare, perché altrimenti, cioè non avremo più nessuna speranza altrimenti. Certo. Io ce l'ho ancora una speranza, però la speranza non è la questione questa decantata democrazia che tutti mi parlano in questi giorni, perché noi dove vogliamo importare la democrazia, nei paesi che hanno il petrolio o nei paesi che veramente hanno bisogno? Massimo, dobbiamo partire. Possiamo partire per provare a dare il giusto peso alle cose da tante domande. Massimo ce ne fa una. Grazie Massimo, però non precipiteremo. E il consiglio di lettura di oggi è Dai sempre speranza di Virgilio Sacchini, un libro scritto da un medico che vive a New York, un libro molto bello che ci fa vedere le cose in altro modo. In fondo, per cambiare il peso che diamo alle cose, dobbiamo provare a spostare un po' il nostro punto di osservazione. A volte la vita, no, che ci prende proprio e ci mette da un'altra parte, a volte potremo aiutarci, no, riflettendo insieme come stiamo facendo. E io vi invito a scriverci o a chiamarci per raccontarci che cosa vi aiuta a dare il peso delle cose, e il migliore messaggio, quello che ci piacerà di più, potrà proprio ricevere a casa Dai sempre speranza di Virgilio Sacchini, che abbiamo in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo anche svegliata, immagino, perché a New York sono le 5 e mezza. 5:40, io mi sveglio sempre presto ed è un piacere essere con voi e grazie di questa opportunità. Io volevo raccontare ai miei ascoltatori, e al suor Laura l'ho già anticipato, che il dottor Sacchini lavora dal 2000 al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York e, pensate, è nella lista dei 100 migliori dottori degli Stati Uniti, no? Quindi io sono davvero onorata. Io vorrei però fare sentire un breve estratto dal suo libro. Il suo libro ci è piaciuto davvero tanto, Parla al plurale, perché l'abbiamo letto con passione Alberto Pellai, io e Laura Vanossi. È un libro che proprio aiuta, no? Aiuta a cambiare un po' di prospettiva. Andiamo. Ogni visita, ogni incontro ti lascia qualcosa. Davanti a te c'è sempre una persona con tutta la sua vita. Spesso te la consegna. Come puoi non esserne coinvolto? Come puoi scegliere? Ognuno di noi però è il risultato delle proprie esperienze ed è attraverso queste che leggiamo quanto ricorderemo con maggiore o minore intensità. Sora Laura, prima di dare la parola al dottor Sacchini vorrei un suo commento a questa frase che noi abbiamo estrapolato dal libro. Estremamente intensa ed estremamente appropriata anche alla realtà nella quale io mi trovo a vivere quotidianamente. Si tratta proprio di persone che si affidano a te perché tu possa dare loro una mano, fare qualcosa. Non dimentichiamoci mai che il nostro compito su questo pianeta è proprio quello di difendere la vita, di curarla e di proteggerla. Questo è il compito che ognuno di noi ha e del quale dobbiamo veramente essere coscienti e quindi impegnarci al massimo. La vita è il bene più grande che sia stato dato, quindi è un bene primario da difendere in maniera assoluta. Non importa di chi sia. Impariamo proprio dagli animali, no? Suor Laura, sì, ecco, i cuccioli li salvano, la leonessa sì. li tiene anche se non sono suoi. Ne parlavo con lei prima, io che vivo in Africa, una leonessa che trova un cucciolo di leone orfano o sperduto, lo fa entrare nel branco proteggendolo dal leone maschio, che naturalmente non lo vorrebbe e lo rifiuterebbe. Maschio. Questa è la natura della vita. Dottor Sacchini, dai sempre speranza, il titolo è bellissimo, il libro è molto bello, l'abbiamo letto con piacere in redazione, ma a me ha colpito molto il sottotitolo, anche in relazione al tema di oggi, ovvero i pazienti che hanno cambiato la mia vita, pazienti tra l'altro di cui lei racconta le storie e gli incontri nel suo libro. Come l'incontro con i suoi pazienti le ha cambiato la vita, dottore? È stata una cosa goccia a goccia oppure è stato un po' come l'incontro a cui... È stata una cosa progressiva perché quando si studia all'università, quando si è giovani e soprattutto in questi momenti la medicina sta diventando un po' meccanica, sì. Un po' robotica, nel senso che c'è un paziente, ci sono dei sintomi, c'è una diagnosi da fare, c'è degli esami da fare, c'è un trattamento e il trattamento spesso ha successo e pensiamo di avere esaurito il nostro compito, ma manca quella comunicazione importante, quella interdisciplinarità che deve esserci tra paziente e medico, che è fondamentale perché il paziente si senta rassicurato, è fondamentale perché il paziente affronti meglio le cure, è fondamentale anche nelle battaglie perse e nell'oncologia in qualche volta purtroppo le battaglie sono perse, perché il paziente si sente comunque alleato al medico e il medico fa il più possibile, si mette nei panni del paziente e cerca di aiutarlo e di rassicurarlo. E queste storie di pazienti sono storie che hanno cambiato il mio modo di pensare, che mi hanno fatto diventare meno meccanico, meno robotico, che mi hanno commosso e mi hanno fatto affrontare la medicina che pratico ogni giorno con un aspetto più umano. Io vorrei farvi ascoltare un breve estratto del libro del dottor Sacchini perché mi sembra che la storia e la storia di Justine, dottor Sacchini, che lei racconta nel suo libro, ci possa fornire un ulteriore spunto di riflessione che voglio commentare con voi, col dottor Sacchini e con Suor Laura. Andiamo. L'ultima volta che ho visitato Justine, i capelli caduti per le cure cominciavano a ricrescere. Mi ha commosso profondamente presentandomi a suo figlio, un vivacissimo ragazzo di colore come il suo dottore. Ho molte speranze, ma anche qualche timore per lei. Il protocollo di controllo prevede una visita ogni 6 mesi, ma li abbiamo ridotti a 3. Voglio che Justine sappia quanto sia per il memorial che per me la sua salute e la sua vita sono importanti. Voglio che senta il nostro calore, il nostro affetto, la nostra totale disponibilità nei suoi confronti. La società l'aveva abbandonata già troppe volte, rompendo con lei, tossicodipendente, ogni rapporto, negandole forse anche l'aiuto necessario. Lei ha saputo uscirne riscattandosi. Le dobbiamo moltissimo, a lei e al suo bambino. Dottor Sacchini, sentendo questa storia, se vogliamo, anche in due parti del mondo così diverse, vivendo delle esperienze così, no? Così forti, ma così lontane, no? Il tumore e la fame, lei e Suor Laura avete un fil rouge che vi lega, no? Infatti vedo che Suor Laura, sentendo queste parole, no? Vedo che ha un'espressione che insomma dice, racconta tante cose. Dottor Sacchini, i suoi pazienti le hanno insegnato a essere un medico diverso, un uomo diverso, immagino, no? Sì, a mettermi nei panni dei pazienti, a capire cosa c'è dietro la malattia, a capire le loro emozioni. I pazienti, le malattie sono purtroppo uguali in tutto il mondo, quindi ci sono pazienti emarginati, pazienti... E ci sono malattie, ricchi. Dottor Sacchini, che mi diceva Suor Laura, adesso poi facciamo subito l'interruzione, Carmelo, ci sono, per andare a capire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ci sono malattie che, Suor Laura le vede, nel suo ospedale in Etiopia diventano delle malattie gravissime, quando magari qua, a proposito delle cose, il peso delle cose, sarebbero delle malattie banali. Ma anche Suor Laura si trova ad affrontare delle situazioni che sembrano disperate, in cui è necessario dare aiuto, essere credibili e sostenere, fare luce. 800 24 00 24, a tra poco, dopo le informazioni sul traffico. Essere e benessere. Suor Laura, eccoci qua. Allora, in questa puntata in cui cerchiamo un pochino di ricollocarci, no? Lei mi dà speranza perché ha dato il mio ospedale come già esistente, quindi questo è un lo prendo e lo vivo come augurio da parte sua. In realtà l'ospedale ad Adwa non c'è ancora. Sì, dobbiamo dare speranza e le mille Justine che io incontro tutti i giorni, molte delle quali sono proprio anche sieropositive, sono donne sole, sono donne che sono state abbandonate, infettate dai loro uomini che poi sono scomparsi. Ecco, queste sono le realtà che viviamo tutti i giorni, anche se naturalmente le situazioni sono estremamente diverse e direi certo, proprio estreme. Io parlo di una medicina di base che manca, malattie come il tumore, malattie come la leucemia infantile sono già specializzazioni che noi non siamo neanche in grado di diagnosticare, perché da noi c'è il nulla assoluto, quindi siamo in mondi totalmente diversi. Naturalmente l'approccio alla sofferenza della persona è uguale. Questo è il filo rosso lontani che ci accomuna. Dottor Sacchini, prima di salutarla, Suor Laura proprio dice: noi abbiamo bisogno dei fondamentali. Tutto è nato perché da un articolo del Corriere Suor Laura era indignata. Insomma, si danno più cure agli animali, più attenzione per gli animali che ai bambini che muoiono in Africa. Da qua abbiamo iniziato a ragionare, ma allora come possiamo porci? Io vorrei un suo commento, no? Ci sono delle situazioni che ci sembrano lontane e che per questo noi non cerchiamo mai di affrontare, pensiamo cosa faccio io da solo, no? Come posso risolvere il problema della fame, delle malattie in Africa, invece noi cerchiamo di dire, proviamo a metterci mano, Io vorrei un suo commento da medico e da uomo, un uomo che viene a contatto quotidianamente con delle storie che sembrano così difficili, sono così difficili, in cui, no, bisogna proprio metterci competenza, passione, cuore, fiducia. Aggiunga lei, dottore. Io penso che la prima istituzione sia l'uomo. Io lavoro in uno degli ospedali più importanti, più grandi del mondo, dove i mezzi non mancano, ma come diceva Suor Laura, l'atteggiamento iniziale a volte è lo stesso, l'atteggiamento iniziale è di un aiuto ad una persona disperata e di cercare di fare il massimo in quel momento con i mezzi che abbiamo. Quindi il messaggio è quello di ascoltare il paziente e mettersi nei panni del paziente e lavorare col paziente. Il paziente deve avere un alleato, l'alleato è il medico, e il medico deve essere alleato nella vittoria e qualche volta nella purtroppo perdita della battaglia. Però l'importante è sempre instaurare un buon rapporto ed avere la forza di allearsi col paziente. Grazie dottor Sacchini per essere stato con noi, è stato davvero un è piacere. È stato un grande piacere. Grazie. Un grande piacere anche parlare con suor Laura. La invito in Africa, dottore, venga e ci dia una mano. Sarebbe un grande piacere, grazie. Grazie al dottor Sacchini. Suor Laura, prima di dare la parola a Luigina dalla provincia di Arezzo, intanto salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Luigina. Suor Laura, allora io oggi, dato che la pagina del Corriere è partita proprio per questo appello, fate qualcosa, sì. Giustamente lei lavora in Etiopia, la costruzione di questo ospedale che ci auguriamo di vedere presto realizzato. Molti ascoltatori mi dicono: ma come faccio a mettermi in contatto con Suor Laura? Allora li invito a collegarsi su internet a www.amicidiadua.org. È l'associazione che ha creato la missione nella quale noi lavoriamo e che sta veramente impegnandosi cercando fondi per la costruzione di questo ospedale. Una piccola chiarificazione: il medico deve essere alleato del paziente, ma quando il medico non c'è, quando in una zona con 1 milione di abitanti c'è un solo medico che ha la preparazione equivalente a un nostro infermiere di corsia, cosa si fa? Luigina, buongiorno. Buongiorno. Niente, un saluto grande a Suor Laura, un abbraccio, perché è una grande emozione trovare una persona che traduce tutto quello che sente, una bella... Io... abitualmente sono pessimista, perché in un'umanità dove l'80% delle persone sì. hanno e il 10% detiene il reddito di tutta l'umanità, no? È una situazione che sì, non però come Luigina abbiamo pensato oggi che da oggi non serve essere pessimisti, no? No, decisamente no. Luigina, facciamo questa piccola conversione, posso usare questa parola? Certamente, un po', certamente. Cioè è inutile che siamo pessimisti, perché a vedere sempre sotto che cosa sta sotto il marciapiede si vedono le cacche dei cani che non i padroni, ritornando ai cani, alcuni padroni non raccolgono. Quindi proviamo a essere ottimisti partendo da noi. Che dice Luigina? Certo, è una grande sollievo sentire che esistono persone così, mi ridà fiducia nell'umanità. Grazie. Volevo dire questo. Sì, grazie Luigina, 800 24 00 24, vede, da un fraintendimento, vede che non tutto il male viene per nuocere. Savina da Belluno, buongiorno. Buongiorno, tanti auguri alla suora. Grazie. Io volevo dire questo, che ho la sensazione spesso che la nostra società attuale sta disumanizzando gli uomini e umanizzando gli animali. E secondo me questo processo toglie la libertà agli uomini e anche agli animali di essere se stessi. Come si possa cambiare non lo so, ma certamente non con il pessimismo. Certo. Ecco, questo volevo dire. Grazie, grazie Savina. Da Belluno, Suor Laura? Io sono decisamente ottimista nonostante la mia indignazione. Perché? Perché girando molto il mondo, dovendo dare voce appunto alla mia gente che voce non ha, devo dire che incontro persone straordinarie. Ecco, diciamolo. E molte di queste sono italiane. Quindi mi sento di dire a voce alta: siamo un grande popolo. Senza condannare assolutamente né mettersi in discussione con chi non condivide le nostre posizioni e forse anche la nostra scelta di valori, per motivi che sono tutti loro e che noi rispettiamo. Io grido di qui insieme con la mia indignazione: grazie, perché siamo un grande popolo. La missione di Adua esiste perché ci sono state persone che ce l'hanno costruita mattone su mattone. Il progetto ospedale è in diciamo molto futuro, ma sta diventando una realtà. È già un'idea, è già un disegno architettonico, è già un coinvolgimento di persone che magari mi danno anche solo 20 euro. Piccole offerte. Cioè, non chiediamo gli interventi dei grandi, che raramente intervengono. Io parlo della piccola gente di cui è fatto questo nostro grande nobile popolo. Quest'anno noi celebriamo 150 anni della nostra nazione. Ebbene, io proprio in quest'anno vorrei che ci facessimo avanti e dimostrassimo quanto grandi siamo, e rendere vera quell'espressione di Enzo Biagi, che era un nostro grande amico: italiani brava gente. Di questo io sono veramente un araldo. 800 24 00 24 se volete ancora intervenire, ma abbiamo proprio gli ultimi minuti. Quello che voglio ricordarvi è che il sito che ha citato Sor Laura, www.amicidiadua.org. Ecco, noi siamo partiti, abbiamo Sor Laura, parliamo dell'ospedale di Adua. C'è comunque tante cose da fare nel mondo, c'è Adua ma non solo. Certo, Adua quindi, però ha un'importanza fondamentale nella nostra storia, perché vicino alla missione ci sono i campi dove migliaia dei nostri ragazzi hanno perso la vita, ed è questa un pochino la sfida che io vorrei lanciare. Ok, quest'anno i 150esimo, ricordiamo e onoriamo i nostri ragazzi che sono morti lì. Allora, Sor Laura, grazie per essere intervenuta. Grazie a lei, Nicoletta, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Buona giornata a voi, io vi aspetto come sempre domani, dopo il GR delle 11, la puntata come sempre potete riascoltarla, potete scriverci sul nostro profilo Facebook, Essere Benessere, e intanto grazie per essere stati con noi. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone. Essere Benessere.